pronti? Motore. Partito. Ciak. Azione. Improvvisamente sentii la voce di Hassan che mi sussurrava: per te qualsiasi cosa. Audiogrammi di Laura Faggin e Paolo Corleoni. You are a cinema, a Hollywood treasure. I love you just the way you are. A cinema, a cinema. Mettetevi comodi, stiamo per raccontarvi Il cacciatore di aquiloni di Mark Forster. È la storia dell'amicizia di due ragazzi afghani di etnia diversa, Amir e Hassan, e del viaggio a ritroso che Amir, diventato adulto, dovrà intraprendere per salvare il figlio del suo amico d'infanzia. Audiogrammi, in radio, come al cinema. Dicembre 2001. Amir era diventato la persona che era all'età di 12 anni, in una gelida giornata invernale del 1975. Ricordava il momento preciso. Era accovacciato dietro un muro di argilla mezzo diroccato e sbirciava di nascosto nel vicolo lungo il torrente ghiacciato. Era passato tanto tempo, ma non è vero, come dicono molti, che si può seppellire il passato. Il passato si aggrappa con i suoi artigli al presente. Erano 26 anni che Amir sbirciava di nascosto in quel vicolo. Nell'estate del 2001 gli telefonò dal Pakistan il suo amico Rahim Khan. Gli chiese di andarlo a trovare. In piedi, in cucina, il ricevitore incollato all'orecchio, sapeva che in linea non c'era solo Rahim Khan. C'era anche il suo passato di peccati non espiati. Dopo la telefonata, Amir andò a fare una passeggiata per le vie di San Francisco, la sua città d'adozione. Improvvisamente sentì la voce di Hassan che gli sussurrava: per te qualsiasi cosa, Hassan, il cacciatore di aquiloni. Seduto su una panchina all'ombra di un salice, gli tornò in mente una frase che Rahim Khan aveva detto poco prima di riattaccare, quasi un ripensamento. Esiste un modo per tornare ad essere buoni. Amir alzò gli occhi verso due aquiloni. Pensò ad Hassan, a Baba e ad Ali, a Kabul. Pensò alla sua vita fino a quell'inverno del 1975, quando tutto era cambiato. E Amir era diventato la persona che era. ...1975 Kabul. Da bambini lui e Hassan si arrampicavano su uno dei pioppi lungo il vialetto che portava a casa di Amir e, restando nascosti sugli alberi, proponeva ad Hassan di estrarre la sua fionda e mitragliare di castagne il pastore tedesco del vicino. Lui non voleva mai, ma se glielo chiedeva Amir, glielo chiedeva veramente, cedeva. Non gli avrebbe mai rifiutato nulla e la sua fionda era infallibile. Quando Ali, il padre di Hassan, li scopriva, si arrabbiava e, minacciandoli con il dito, li faceva scendere dall'albero. Tutti ritenevano che la casa di Amir fosse la più bella del quartiere. C'era addirittura chi pensava che fosse la più bella della città. Il pavimento dei quattro bagni era rivestito da intricati mosaici di piastrelle, scelte personalmente da Baba, il padre di Amir, a Isfahan. C'era una foto del matrimonio dei suoi genitori. Suo padre Baba, elegantissimo nel suo completo nero, sua madre, una giovane e sorridente principessa in bianco. In un'altra foto, suo padre e il suo miglior amico e socio in affari, Rahim Khan, ritratti all'esterno della casa. All'estremità meridionale del giardino, all'ombra di un nespolo, c'era la casa dei domestici, una capanna di argilla dove abitavano Hassan e Ali, e dove Amir, nei 18 anni in cui visse lì, entrò pochissime volte. Era in quella capannuccia che Sana Ubar, la madre di Hassan, l'aveva messo al mondo nell'inverno del 1964, un anno prima che sua madre morisse dandolo alla luce. Anche Hassan perse la madre e non parlava mai di lei, come se non fosse mai esistita. Amir era un Pashtun e Hassan era un Hazara. Amir era sunnita e Hassan sciita, e niente al mondo avrebbe potuto cambiare questi dati di fatto. Niente. Eppure Amir aveva passato la maggior parte dei suoi primi 12 anni a giocare con Hassan. Una mattina Amir corse in camera a prendere un libro e in cucina per riempirsi le tasche di pinoli. Poi lui e Hassan si fiondarono verso la collina. Passato un quartiere residenziale, stavano attraversando un campo incolto quando Hassan fu colpito alla schiena da una pietra. Si voltarono e il cuore di Amir cessò di battere. Dove ve ne andate, finocchi? Asef e i due suoi amici, Wali e Kamal, si stavano avvicinando. Tutti i ragazzi del quartiere conoscevano Asef e il suo famigerato pugno di ferro. Padre afghano e madre tedesca, Asef era più alto degli altri e aveva gli occhi azzurri. La fama della sua ferocia lo precedeva ovunque andasse. La sua parola era legge e se qualcuno aveva bisogno di essere rieducato, usava il pugno di ferro. Asef era senza dubbio il più spietato tormentatore di Hassan. Voi che ne pensate, ragazzi? Se io vi pagassi per essere miei amici, sareste davvero i miei amici o sareste i miei servi? Eh no, Asef. Se tu ci pagassi, noi saremmo solo i tuoi servi. E quindi Amir non ha amici? Noi non vi abbiamo fatto niente di male. Ti sbagli. Mi date fastidio. L'Afghanistan è la terra dei Pashtun. Noi siamo i veri afghani, non questo naso piatto di una Hazara. La sua gente inquina la nostra terra, sporca il nostro sangue. Se i deficienti come te e tuo padre non li accogliessero a casa loro, ce ne sbarazzeremmo subito. Per favore, lasciaci stare, aga. Hassan si nascose dietro Amir. I tre si avvicinarono, fermandosi a pochi passi da loro. Asef incrociò le braccia sul petto con un sorriso da pazzo. Per fortuna era figlio di Baba, pensò Amir. Solo questo lo avrebbe trattenuto dal fargli del male sul serio. Asef abbassò di nuovo lo sguardo su di lui. Sembrava essersi appena svegliato da un sogno. Con la coda dell'occhio Amir scorse Hassan che velocissimo si chinava e si rialzava. Si voltò e si trovò di fronte agli occhi la fionda di Hassan, con l'elastico tirato all'indietro al massimo e un sasso grosso come una castagna. Mettila giù, bastardo di una Hazara. Vattene e lasciaci in pace. Forse non te ne sei accorto, ma noi siamo in tre e voi in due. E forse tu non ti sei accorto che sono io quello che ha la fionda. Asef fece una smorfia. Wali e Kamal erano come affascinati dalla scena. Qualcuno aveva sfidato il loro dio, l'aveva umiliato, e per di più era un misero Hazara. Lasciamo perdere. Asef indietreggiò seguito dai suoi discepoli. Li sistemeremo un'altra volta. Hassan cercava di infilare la fionda nella cintura dei calzoni, ma le sue mani tremavano, la bocca arricciata in una smorfia che voleva essere un sorriso rassicurante. Se ne tornarono a casa senza una parola, certi che Asef e i suoi amici gli avrebbero teso un'imboscata. Non lo fecero, ma la cosa non li tranquillizzò affatto. L'inverno era la stagione preferita di tutti i bambini di Kabul, almeno di quelli il cui padre poteva permettersi una buona stufa di ghisa. E la ragione era semplice: le scuole chiudevano e, naturalmente, era la stagione degli aquiloni. Amir e suo padre Baba vivevano nella stessa casa, ma le loro esistenze si svolgevano in sfere separate. Gli aquiloni costituivano la sola, sottilissima e fragile intersezione fra quelle due sfere. Ogni inverno in tutti i quartieri di Kabul si svolgeva un torneo di combattimenti con gli aquiloni. A Kabul i combattimenti con gli aquiloni erano una guerra. Il torneo invernale era un'antica tradizione afghana. Iniziava di mattino presto e non si concludeva se non quando in cielo volava un solo aquilone, il vincitore. La gente faceva il tifo dai marciapiedi e dai tetti a terrazza delle case. Ogni aquilonista aveva un assistente. Nel suo caso era il fedele Hassan, che teneva la spoletta e svolgeva il filo. Nei combattimenti di aquiloni non ci sono regole. Lancia il tuo aquilone, taglia il filo degli avversari e buona fortuna. Però questo non era tutto. Il bello cominciava dopo il taglio, quando entravano in gioco i cacciatori di aquiloni. Hassan era il migliore in assoluto. Si dirigeva con impressionante sicurezza verso il punto in cui pensava che sarebbe atterrato il suo obiettivo, molto prima dell'atterraggio, come se avesse una bussola interna. Che devi fare qui? Siediti con me, Amir. È inutile, stai solo sprecando tempo. È dalla parte opposta quell'aquilone. Verrà da questa parte. E come fai a saperlo? Lo so. Sì, ma come? Io ti ho mai detto delle bugie. E come faccio a saperlo? Preferirei mangiare del fango. Ma tu pensi che ne saresti capace? Di fare cosa? Di mangiare del fango se te lo chiedessi. Se me lo chiedi io lo mangio, Amir. Tu mi chiederesti di fare una cosa simile? No, sei pazzo. Lo sai che non lo farei. Ma certo. Eccolo, annunciò Hassan puntando il dito verso il cielo. L'aquilone stava cadendo tra le sue braccia, spalancate per accoglierlo. La gente non parlava d'altro. Si diceva che sarebbe stato il più grande torneo degli ultimi 25 anni. Una sera, a cena, Baba disse in tono indifferente: siete pronti tu e Hassan? Ci stiamo allenando. Ti ho mai raccontato di quell'anno in cui ho vinto io il torneo? Non l'hai raccontato solo a lui, l'hai detto mille volte a tutta Kabul. Quel giorno ho tagliato 14 aquiloni. Credo che nessuno abbia ancora superato quel record. Sì, come no, mangia. Un'idea stava germogliando nella mente di Amir. Quell'inverno il torneo lo avrebbe vinto lui. Avrebbe vinto e avrebbe dato la caccia all'ultimo aquilone. Poi lo avrebbe portato a casa per farlo vedere a Baba, per mostrargli una volta per tutte che era degno di lui. Ora aveva una missione. Questa volta non lo avrebbe deluso. Non aveva mai visto così tanta gente nella loro strada. I partecipanti al torneo, aquilonisti e assistenti, facevano gli ultimi preparativi. Amir si girò verso la terrazza della loro casa e vide Baba e il suo amico Rahim Khan seduti su una panca, intenti a bere il tè. Siamo qui! Fatevi onore! Baba fece un cenno di saluto. Non sapeva se verso di lui o verso Hassan. Amir sentì un improvviso impulso a ritirarsi, piantare tutto e tornare a casa. Perché si sottoponeva a quel supplizio quando sapeva già come sarebbe andata a finire? Non è una giornata adatta per gli aquiloni. Perché no? È perfetta invece, una giornata meravigliosa. Oggi siamo noi due contro tutta Kabul. Noi due contro tutta Kabul non sono un po' troppi? Facciamolo volare, mister! Hassan alzò sopra la testa il loro aquilone, rosso, con i bordi gialli. Si leccò le dita e le tenne in alto per saggiare la direzione del vento. Abbassa il rocchetto! Tienilo forte! Poi partì come un fulmine. Il rocchetto si srotolò nelle sue mani fino al momento in cui Hassan si fermò, a un centinaio di metri. Un minuto dopo, l'aquilone saliva veloce nel cielo come un grande uccello di carta. In cielo si libravano già almeno 2 dozzine di aquiloni, come squali di carta in cerca di una preda. Hassan teneva il rocchetto, le sue mani sanguinavano già. Ben presto iniziarono i combattimenti e i primi aquiloni abbattuti volteggiarono alla deriva. Amir lanciava sguardi furtivi a Baba sulla terrazza. Chissà a cosa pensava. Si stava preoccupando per lui? O forse in fondo al cuore era contento di assistere ancora una volta al suo fallimento? Devi prenderlo da sotto! Su e giù per le strade i cacciatori di aquiloni tornavano trionfanti esibendo i loro trofei. Ma tutti sapevano che il meglio del torneo doveva ancora arrivare. Un'ora dopo, il numero degli aquiloni sopravvissuti era sceso da una cinquantina a circa 10. Quello di Amir era tra questi. L'abbiamo tagliato! L'abbiamo tagliato! Ma ogni aquilone che cadeva, nel suo cuore si accendeva una nuova speranza. Teneva gli occhi fissi su un aquilone azzurro che da un'ora seminava il terrore. Mezz'ora dopo, in cielo erano rimasti soltanto 4 aquiloni. Quello di Amir volava ancora e sembrava che ogni folata di vento soffiasse in suo favore. Stanno andando forte. Aspetta a dirlo, siamo solo all'inizio. Non si era mai sentito così fortunato, così padrone di se stesso. Era eccitante. Va un po' più sulla destra. Non osava guardare il tetto di casa. Doveva concentrarsi, giocare il tutto per tutto. Un quarto d'ora dopo, il sogno che al mattino gli era sembrato impossibile era diventato realtà. Erano rimasti in due, Amir e l'aquilone azzurro. Tiralo in avanti! Sì! Taglialo! Tira e taglia! Tra quelle voci c'era anche quella di suo padre. La musica era assordante. Amir però sentiva solo il pulsare del sangue alle tempie. Chi taglia vince! Aspetta! Era solo questione di tempo. Una folata di vento fece alzare il suo aquilone. Era in vantaggio. Si portò sopra quello azzurro e mantenne la posizione. Il suo avversario sapeva di essere nei guai. Tentò una manovra disperata per liberarsi, ma Amir non glielo permise. La folla intuiva che la gara stava per concludersi. Chiuse gli occhi e allentò la presa sul filo. Il vento lo faceva scorrere tra le sue dita, incidendo tagli profondi. E poi... Non ebbe bisogno di ascoltare il boato della folla, né di vedere quello che accadeva intorno a lui. Hassan urlava di gioia e lo abbracciava. Un secondo dopo, anche Amir urlava per di fiato in un turbinio di colori e di suoni. Gettò il braccio libero attorno alle spalle di Hassan e insieme cominciarono a saltellare, ridendo tra le lacrime. Amir passò sgattaiolando tra la folla nei viottoli fangosi fiancheggiati da due file ininterrotte di negozietti. Cercava Hassan tra i mendicanti coperti di stracci, tra gli ambulanti con i loro tappeti sulle spalle, nei negozi di stoffe e nelle macellerie. Ma di lui non c'era traccia. Hai visto passare un ragazzo a Zara da questa parte, con un ciapan rosso? Ho visto un ragazzo che correva. Aveva un aquilone e è andato di là. Ma ormai quegli altri l'avranno raggiunto. Chi? I ragazzi grandi che lo rincorrevano. Raggiunse l'ingresso di un viottolo fangoso e si avviò guardingo all'imboccatura del vicolo. Trattenendo il fiato sbirciò dietro l'angolo. Era un vicolo cieco. Hassan, vicino al muro in fondo, teneva le gambe leggermente divaricate, le mani strette a pugno in un atteggiamento di sfida. Dietro di lui, su un mucchio di spazzatura, era appoggiato l'aquilone azzurro, la chiave con cui Amir avrebbe aperto il cuore di Baba. C'erano tre ragazzi che gli bloccavano ogni via di fuga, gli stessi tre che li avevano minacciati sulla collina. Wali su un lato, Kamal sull'altro e in mezzo a Seth. E adesso dov'è la tua fionda, Asar? Eh? Non sembri così coraggioso oggi. Ma io mi sento in vena di perdonarti. Che ne dite, ragazzi? Sei molto generoso, specialmente dopo che è stato così maleducato. Amir sentì il corpo rattrappirglisi, mentre un brivido gelido gli correva lungo la schiena. Asef roteava il pugno di ferro con spavalderia. Ti perdono. Sei contento? Certo, tutto ha un prezzo. Il mio perdono lo devi pagare. Tutto ha un prezzo. Ma tu sei un Asara fortunato, perché oggi ti costerà soltanto quell'aquilone. È un prezzo onesto. Che ne pensate, ragazzi? È più che onesto. Sei molto generoso. Amiraga ha vinto il torneo. Quest'aquilone è suo. E io l'ho cacciato per lui. Che Asara fedele. Che cane fedele. Però prima che ti sacrifichi per lui, prova a chiederti questo, Asara. Lui farebbe lo stesso per te. Ti sei mai chiesto perché gioca con te solo quando non c'è nessun altro? Eh? Rispondimi, Asara. Perché per lui tu sei come un brutto cagnolino. Qualcosa con cui giocare quando si annoia. Qualcosa da prendere a calci quando si arrabbia. Ti sbagli, io e Amir siamo amici. Siete amici? Ora basta, deficiente. Dammi l'aquilone. È l'ultima possibilità. No. Come vuoi. Te lo lascio. Così ti ricorderai per sempre di quello che ora sto per farti. Tutto ha un prezzo. Il vicolo era colmo di rifiuti di ogni genere, ma sui cumuli di spazzatura due oggetti tenevano inchiodati i suoi occhi: l'aquilone azzurro appoggiato al muro e i calzoni di Hassan gettati su un mucchio di mattoni. È solo il figlio di un servo. Hassan giaceva con il petto a terra. Kamal e Wali gli tenevano un braccio ciascuno, piegato all'indietro e premuto sulla schiena. Asef si chinò dietro Hassan, lo prese per i fianchi e gli sollevò le natiche nude. Tenendogli una mano sulla schiena, con l'altra slacciò la fibbia della cintura e tirò giù la cerniera a lampo dei jeans. Nascosto dietro un angolo, Amir smise di guardare e si alzò. Non c'è niente di male nel dare una lezione a quest'animale. Tenetelo giù, non fatelo muovere. Sentì qualcosa di caldo scorrergli lungo i polsi. Stava piangendo. Con i rantoli ritmici e affannosi di Asef nelle orecchie lasciò il vicolo. Gli restava un'ultima possibilità per prendere una decisione, per scegliere che tipo di persona sarebbe diventato. Avrebbe potuto tornare nel vicolo, difendere Hassan come lui aveva fatto decine di volte e affrontarne le conseguenze. O scappare. Scappò. Scappò perché era solo un vigliacco. Quell'estate del 1976 Amir compì 13 anni. Alla sua festa c'era anche il diabolico Asef con i suoi scagnozzi e naturalmente Hassan, che con la sua testa bassa serviva loro da bere. Il mattino seguente, in camera sua, Amir guardò i regali che aveva ricevuto. Non sapeva neppure perché li guardava, visto che non gli davano alcuna gioia. Si sedette sul bordo del letto. La stessa immagine continuava a balenargli nella mente. Hassan umiliato a servitore di Asef. Una cosa gli era chiara. Uno di loro doveva andarsene. Forse sarebbe stato meglio così. Avrebbe mitigato la sofferenza di Hassan e anche la sua. Così pensò a un improbabile furto. Baba, hai visto il mio orologio? Quale? Quello che ti ho appena comprato? Non l'avrei già perso? No, era in camera mia sul tavolo fino a stamattina. Vedrai che verrà fuori. Il mattino seguente aspettò in camera sua che Ali rigovernasse in cucina. Aspettò che lavasse i piatti della colazione e pulisse i piani di lavoro. Guardò fuori dalla finestra e aspettò che lui e Hassan andassero al bazar per fare la spesa. Poi prese dal mucchio un paio di buste di denaro e il suo orologio. Scese le scale, attraversò il giardino ed entrò nella casupola di Ali vicino all'albero dei cachi. alzò il materasso di Hassan e vi infilò sotto una manciata di banconote e l'orologio. Aspettò una mezz'ora, poi bussò alla porta dello studio di Baba. Avanti. E gli disse quella che sperava sarebbe stata l'ultima di una lunga serie di vergognose menzogne. Dalla finestra della sua stanza vide Ali e Hassan che tornavano dal bazar, spingendo le carriole cariche di carne, naan, frutta e verdura. Vide Baba che usciva di casa e si avvicinava ad Ali. Appena hai fatto, vieni da me con Hassan. Sì, Aga Sahib. Senza troppi preamboli, Baba chiese: hai rubato tu il suo orologio, Hassan? Sì. Hassan non mentiva mai e Amir capì che anche lui sapeva. Sapeva che aveva visto tutto nel vicolo, che era rimasto lì a guardare senza fare nulla. Eppure veniva ancora in suo soccorso, forse per l'ultima volta. In quel momento Amir lo amò più di quanto avesse mai amato nessuno. Avrebbe voluto dirgli che era lui il serpente che si nasconde nell'erba. Era lui il mostro del lago. Va bene, ti perdono. Noi ce ne andiamo, Aga Sahib. Cosa? Non possiamo più vivere qui. Ma ho appena detto che lo perdono. Non mi hai sentito? La nostra vita qui è impossibile, Aga Sahib. Ce ne andiamo. Non mi interessa l'orologio. Non capisco perché te ne vuoi andare. Mi dispiace, Aga Sahib, ma la nostra roba è già pronta. Abbiamo deciso ormai. Ali, non mi sono preso cura di voi, rispondi. Non sono stato generoso, forse? Almeno dimmi perché. Ti proibisco di andartene. Mi hai sentito? Tu non puoi andartene. Con tutto il rispetto, Aga Sahib, lei non può proibirmi più niente. Noi non lavoriamo più per lei. Leave they were made poor with you, working a Kabul. Ormai non ci si poteva più fidare di nessuno. Per denaro o per paura, il servo denunciava il padrone, il figlio il padre. Ci si denunciava tra fratelli, tra vicini, tra amici. E così lui e Baba decisero di andare via. Il resto di quel viaggio sono frammenti incoerenti, soprattutto di rumori e odori. I MiG che rombavano sopra le loro teste, il crepitare delle mitragliatrici, il ragliare di un asino, lo scampanellio o il belare delle pecore, la ghiaia sotto le ruote del camion, il pianto di un bambino nel buio, la puzza di benzina, di vomito e di escrementi. I won't let you go. Fine primo tempo. Domenica prossima alle 20:10 la seconda ed ultima parte de Il cacciatore di aquiloni. Audiogrammi è un programma ideato e condotto da Laura Faggin e Paolo Corleoni. Voce Laura Faggin. I love you just the way you are. I said.